Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che si chiama Cittadini Responsabili. Saluto prima di tutto i nostri ospiti che sono Don Virgilio Colmegna, fondatore e presidente della Casa della Carità a Milano, Umberto Ambrosoli e poi sono qui con me Gisella Introzzi che guida la lista della mia città e Pietro Querezza che introdurrà questa serata, anche lui candidato nella lista della mia città. Porto le scuse del candidato sindaco che sosteniamo come lista della mia città, Mario Lucini, che stasera avrebbe voluto essere presente, però come molti di voi forse già sanno c'è una tavola rotonda, un dibattito nel quale si presentano credo la metà dei candidati sindaco a questa tornata elettorale, l'altra metà si presenterà domani. È un incontro, sono due incontri coordinati dalla provincia, dal quotidiano La Provincia, e quindi purtroppo Mario Lucini questa sera non potrà essere presente. Questa sera è un'occasione che abbiamo voluto dedicare a un'ampia riflessione sulla responsabilità dei cittadini. Cosa possono fare i cittadini, cosa possiamo fare noi come cittadini per superare il degrado politico e civile che da tempo pervade la nostra società, e anche per superare quel rapporto conflittuale e sempre più lontano che si è creato tra i cittadini e le istituzioni. E diciamo lo slogan anche della lista Amo la mia città è abbattiamo il muro che separa la politica dai cittadini, il palazzo dai cittadini. Perché si è creato questo muro e come possiamo abbatterlo? Cosa possiamo fare come cittadini per riuscire di nuovo ad interagire in modo positivo sia con la politica sia con le istituzioni, ma anche interagire in modo positivo nel nostro quotidiano, nelle nostre professioni, nelle associazioni alle quali partecipiamo? Lascio naturalmente tutte le riflessioni ai nostri ospiti e do la parola subito a Pietro Querezza, candidato nella lista Amo la mia città, per un'introduzione. Prego Pietro. Mi rendo conto di avere pensato ad un'introduzione molto astratta, mi dovrete perdonare, poi so che la concretezza e la profondità verrà a seguire. Pensando a questo incontro sul tema cittadini responsabili, mi è venuto in mente un filosofo su cui ho fatto la tesi ormai tanti anni fa, che si chiama Emmanuel Levinas e che concentra il suo pensiero sul termine responsabilità. Levinas cerca di provare a dire nel suo discorso a dire l'alterità, l'altro, a parlare dell'altro senza parlare del sé, del medesimo, a cui sembra che la filosofia sia condannata. Allora, per tentare di fare questo discorso si riferisce al termine responsabilità. Secondo Levinas noi siamo responsabili in termini assoluti dell'altro. La responsabilità dell'altro precede la nostra stessa identità, anzi arriva a dire una cosa secondo me molto bella, che è il fatto stesso di essere responsabili dell'altro che ci identifica come unici, nella nostra unicità. E questo come accade attraverso il volto, nella fenomenologia, nel quotidiano accade attraverso l'incontro dei volti con gli sguardi. Il volto è sempre, secondo la filosofia di Levinas, totalmente altro, è sempre misterioso, non possiamo mai possederlo fino in fondo, e ci accusa, ci chiama alla responsabilità. Questo discorso, che sembra molto astratto, si conclude in questi termini. Levinas introduce anche la figura del terzo. Sostiene che se io sono completamente e totalmente responsabile dell'altro in termini assoluti, e quindi sono, diciamo, posseduto dalla responsabilità per l'altro, nel momento in cui compare il terzo, devo iniziare a riflettere, perché il terzo è prossimo anche dell'altro. E quindi a questo punto si introduce il discorso politico, si introduce il concetto di giustizia, perché devo iniziare a ragionare su come faccio ad essere responsabile dell'altro, garantendo però anche che il terzo sia... E quindi introduce sostanzialmente il discorso politico. Vi leggo questa frase che mi sono appuntato: il terzo è altro dal prossimo, ma è anche un altro prossimo, ma è anche un prossimo dell'altro e non semplicemente un suo simile. Allora, perché faccio questo? Perché ho iniziato con questo discorso? Per provare a dirvi quattro motivi. Il primo è che le testimonianze che abbiamo qui sono sicuramente delle testimonianze molto concrete. Nella politica si sente spesso fare riferimento alla concretezza, al termine concretezza, bisogna essere concreti, ci sono i problemi, eccetera. Certo, è così, ma sono convinto che la concretezza che le persone sapranno raccontare questa sera, non io ma loro, nasce anche da una grande profondità umana e intellettuale. Quindi se la concretezza dobbiamo pensarla come risolvere il problema pratico abbandonando completamente valori e idee, stiamo probabilmente pensando a una cittadinanza piccola, a una responsabilità piccola, a una politica piccola. E poi perché vi ho raccontato questa cosa? Perché l'idea che l'origine della responsabilità anche di cittadini, quindi dei doveri, delle leggi, del far rispettare, dell'impegno, della partecipazione, tutto quello che verrà raccontato, mi piace moltissimo pensare che abbia la sua origine nel volto di una persona, nel volto, quindi che tutto riconduca comunque all'idea di prossimità, perché credo che senza quello una responsabilità astratta rischi di essere, come dire, forse non perseguita fino in fondo e forse rischi anche di portare poi verso derive molto, molto pericolose. E poi il terzo motivo è semplicemente perché questa descrizione del terzo che arriva mi sembra descrivere perfettamente l'idea di cittadini responsabili. Proprio i cittadini responsabili sono dei cittadini che forse si fanno carico non solo del prossimo, ma ragionano anche sul fatto che ci sono tanti altri prossimi, quindi le loro scelte, le loro azioni quotidiane tengono conto di quello, sono riflessive. Un'ultima cosa, parlo di un'esperienza, come dire, provo a mettere più la mia persona, le mie emotività al centro. Io devo dire che se penso al termine cittadini responsabili mi viene in mente mio figlio. Non che questo voglia dire che chi non ha figli non può provare, ovviamente. Però questa è la mia esperienza. E quando penso a mio figlio penso a un altro che mi determina veramente, che mi ha chiamato, ma allo stesso tempo ha un'alterità assoluta. Quindi torna un po' questa cosa che vi ho raccontato brevemente. E credo questo, nel volantino che abbiamo scritto si conclude dicendo che forse la responsabilità dei cittadini, che è un po' un'idea che può risultare anche pesante, no? Adesso un po' moralistico, però penso, si conclude dicendo che forse se ribaltiamo quest'idea, l'idea che la responsabilità sia nostro malgrado, eccetera, possiamo anche pensare che sia un modo per determinare la nostra libertà. E perché lo dico a proposito di mio figlio? Perché io certo che voglio essere responsabile di mio figlio, lo sono mio malgrado, ma voglio essere libero di poterlo essere. Io pretendo di essere responsabile di mio figlio e quindi pretendo di prendermene cura. Ecco, e quella pretesa sono convinto che mi renderà libero. Ora, scusatemi se il discorso è stato molto astratto, era quello che mi sentivo di dire, sicuramente chi mi seguirà saprà dare concretezza a questi discorsi. Grazie a Pietro Coerenza. Io introduco Don Virginio Colmenia. Don Virginio Colmenia è nato a Saronno, nel 1993 è stato nominato dal cardinale Carlo Maria Martini direttore della Caritas Ambrosiana di Milano, un ruolo che ha tenuto fino al 2004, dopodiché nel 2004 ha fondato la Casa delle Carità, e poi ci spiegherà come funziona e di cosa si occupa, ed è tuttora presidente della Casa della Carità. Io Don Virginio lo conosco da un po' di tempo, ancora dai tempi quando era direttore della Caritas Ambrosiana, poi siamo stati insieme nel comitato etico di Banca Etica, una società controllata da Banca Etica. L'idea che mi sono fatto di lui è un'idea di una persona molto concreta, una persona che sa rimboccarsi le maniche e lo fa sempre, e ha dato molto spesso una testimonianza di come fare a rimboccarsi le maniche per togliere quel tappo di cui prima si parlava, prima di iniziare la serata, quel tappo che sembra stia chiudendo la nostra società. Io chiederei quindi a Don Virginio di dirci un po' come fare per togliere questo tappo, di darci qualche spunto, poi gli farò altre domande. Io vorrei che questo fosse un dialogo tra di noi più che una serie di presentazioni e di discorsi. Prego. Sì, grazie, anche perché l'introduzione mi rende molto sereno, perché una delle idee che ho è sempre che bisogna cambiare il linguaggio della politica, e quindi avvertire questo e portando anche musica alle mie orecchie, nel senso che il tema dell'altro, dell'incontro, del guardare che qualsiasi tipo di azione, di responsabilità è un'azione che si fonda su delle idee, su dei percorsi, su un nuovo modo di buttare dentro anche nella vita di tutti i giorni il fatto che il pensiero, le capacità di costruire cultura è certamente importante. Quando il Cardinal Martini volle, e io dico sempre che un po' di follia c'è dentro, perché al di là di questo percorso, prima di fare il direttore della Caritas ho fatto tra i tanti 11 anni in comunità con i dimessi dall'ospedale psichiatrico, e quindi se non sono diventato matto del tutto, credo che ci sia dentro la grande gioia del riscoprire sempre questa dimensione che ho ritrovato in una frase anche simbolica in questi 20 anni, da 20 anni che Ernesto Balducci manca, c'è una sua frase che dice: siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Ecco, mi pare che questa sia una frase che possa ritornare profondamente nel linguaggio anche della politica, della capacità di costruire polis, cittadinanza, proprio partendo da quei non luoghi di relazione, di fragilità, dove dentro invece si nasconde questa potenzialità, questa voglia di cambiamento. Se la politica non viene portata a una dimensione di cambiamento, di novità, diventa qualcosa di stanco. Poi ci vuole la tecnica, però la tecnica non è la morfina tecnocratica che qualcosa può arrivare a assorbire. Ci vogliono le cose, ma ci vuole anche questa emissione forte di carica che legittima questo bagaglio etico che è dentro nelle relazioni tra le persone. Visto che citavo qualcuno, io cito sempre anche questa frase di Simone Weil che diceva: il radicamento è forse il bisogno più importante e misconosciuto dell'animo umano. È uno dei più difficili da definire. Un essere umano ha una radice grazie alla sua partecipazione reale, attiva, naturale, all'esistenza di una collettività. Ha scritto questo nel suo esilio londinese, lei ebrea, costretta a emigrare da una Francia assediata dal nazismo. Lì è tutta questa idea della dimensione collettiva, dello stare con gli altri come responsabilità. Quanto abbiamo pagato in questo individualismo proprietario, esiste l'individuo e non la società, diceva la Thatcher. Poi sostanzialmente questo è entrato a piene mani dentro in un percorso dove la responsabilità verso gli altri diventa quasi un elemento soltanto moralistico di attenzione, ma al centro ci sta invece l'individuo. Allora dobbiamo ribaltare la prospettiva. È questa utopia delle relazioni, della giustizia, della capacità di ricostruire continuamente legami. È questo sentimento che la responsabilità verso gli altri non è un appello moralistico, è un modo di far star meglio noi. E è una domanda di felicità straordinaria dentro le nostre dinamiche. Qualche volta siamo appassiti nella voglia di cambiamento, che siamo continuamente quelli che mettono semplicemente la voce della protesta, dello stantio, del pessimismo che è attorno. Per me, che vivo in casa carità con situazioni tra le più drammatiche, ma anche tra le più cariche di domande e di interrogativi, in questo momento quest'anno sono passate più di 90 nazionalità e quindi ho lì anche i campi rom, tutti i bimbi, tutto quello che volete, ma dentro vi è una straordinaria ragione di felicità. Io lo credo molto importante questo, radicato nelle idee, nella capacità di comportamento, nello stile soggettivo di vivere. perché la politica, appunto perché è responsabilità verso gli altri, chiede un nuovo linguaggio, ma chiede anche la capacità di essere se stessi, di ricostruire anche la propria soggettività. Quanto male ha fatto, e c'è stato anche qualche uomo ecclesiastico che ancora continua a pensare che la divisione tra vita soggettiva e vita pubblica sia una cosa quasi da fare coi muri separati. Ci mancherebbe altro che ci sia il moralismo e il giudizio sulle persone, ma la capacità di una soggettività che sappia esprimere anche rispetto agli altri la coerenza con i valori che si proclamano è importante, che il rapporto tra fiducia con le istituzioni nasce se la gente consegna alla credibilità della politica anche la propria storia personale. La caduta di credibilità giunta quasi al 2% credo che sia legata anche al fatto di una sfiducia totale, dell'avvertire bruciante sulla propria pelle che si dicono alcune cose e poi si praticano altre. Ecco, ricostruire questo nesso profondo tra vita personale e vita comunitaria credo che sia estremamente importante. Qui ci si gioca veramente il futuro, che certamente poi deve entrare nei linguaggi dell'economia, deve entrare nei linguaggi dell'abitare, nei linguaggi anche più grossi della finanza, ma deve partire, deve avere un luogo, un mondo vitale, un luogo caldo dove ciascuno reinterpreta questo e rigenera continuamente la propria speranza. Se alla politica sradichiamo questo, noi consegniamo un'operazione semplicemente di tecniche, di numeri, di fattibilità che poi non entra a scaldare i cuori. Ecco, noi dobbiamo recuperarlo questo, perché se l'antipolitica cresce così fortemente dentro e radica ancora di più l'individualismo protestatario o di assorbente di egoismi più o meno mascherati, noi però dobbiamo renderci conto che l'unica maniera per superarla è quella di stare nel mezzo delle difficoltà. Ecco, stare nel mezzo è certamente una delle parole che coniugo abbastanza. Io, quando mi hanno dato la laurea honoris causa in scienze ed educazione alla Bicocca qualche mese fa, la mia lezione magistralis cosiddetta è la pedagogia del chi ce lo fa fare. E credo che ci sia dentro una domanda anche molto profonda qui. C'è dentro la capacità di coniugarsi con un futuro che qualche volta non descrivi, non te lo immagini o non lo quantifichi come vuoi te. Il futuro delle relazioni, della capacità anche dei sentimenti, della tenerezza, e quindi una politica anche al femminile credo che sia estremamente importante, non tanto per un discorso semplicemente paritario, ma che porta dentro anche qualche lettura di sentimenti, di operazioni, di tenerezza, di capacità di essere appassionati, di essere indignati, ma di trasformare anche questo. Non sembrino discorsi astratti, perché mi hai messo in moto quando sentivo che citava Levinà con tutto quello che significa l'altro, tutto questo tema qui staziona dentro nel nostro modo di pensare e di costruire anche la città. Una città coi muri e una città e muri quelli fisici, che qui ci sono, ma muri anche di relazione, di divisione. In fondo anche a Milano, me lo lasciate dire, quando ho fatto una scelta evidentemente anche impegnativa in quel momento, che non ho l'usanza di schierare o di indicare, anche per il ruolo che si viene qualche indicazione di carattere partitico politico, però ho avvertito che se continuava ad arrivare un linguaggio che era Zingaropoli, tutto quello che volete, ma un linguaggio carico di rancore, un linguaggio che non riusciva a riscoprire il gusto di una politica che anche nelle diversità deve riscoprire fino in fondo le relazioni e la costruzione di uguaglianza, noi avremmo portato dentro un pessimismo, uno scontro di cui andavano di mezzo anche le persone con le quali ogni giorno vedo nel loro volto un richiamo a una solidarietà diversa. Cambiare il linguaggio non vuol dire semplicemente usare dei linguaggi astratti, significa entrare nel merito delle relazioni delle persone, dare carne alla nostra speranza. Non sembra un discorso, lui diceva, un discorso astratto, per me ha dentro la storia delle persone che ho lì, che condivido, e quello che mi ha insegnato Martini, che quando venne sostanzialmente disse: fai anche un luogo di ospitalità, vivici dentro, ma costruirlo come un luogo dove guardare alla città e ricostruire quello che si chiama la sapienza della carità. Discutemmo se utilizzare la parola carità, e lui volle la carità e disse: va ripulita continuamente da quel senso quasi di esteriorità, di superficialità, di buonismo. La carità deve, fece la meditazione sull'eccedenza della carità. La carità deve riempire la giustizia. Don Milani diceva che la carità senza giustizia è una truffa, ma la deve spingere anche oltre, deve spingerla nei quei confini dove non c'è l'utilità, non c'è il rendiconto, ma certamente c'è questo sguardo diverso che impianta dentro anche questa visione. Allora voi capite che, soprattutto per noi che non abbiamo un compito politico istituzionale, ma che viviamo in questa realtà della società civile dove la passione del linguaggio, delle beatitudini, questo patrimonio dell'umanità, che è questa pagina evangelica che vale per tutte le culture, ecco, entra dentro, ti appassiona, abbiamo bisogno come mai in questo periodo di un gusto di persone che assumono questo, che portano dentro la capacità della mediazione, del bene possibile. Io sono stato e ho fatto l'introduzione e poi sono stato proprio a Bozzolo da Mazzolari, e dove le sue meditazioni nel 1946 e altre erano cariche di impegno politico. Io dico sempre che in questo periodo un certo tipo di volontariato, un certo tipo di impegno, vedo qui qualcuno che lo fa anche molto generosamente, che è guai se non ci fosse, ha bisogno questa categoria però di immettersi nel bisogno di una politica per non diventare un'autorappresentazione delle proprie esigenze, un'apologetica in difesa di noi. Abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo di gratuità, e la politica è il regno della gratuità. Sto dicendo una cosa che sembra bestemmia in un periodo dove c'è di tutt'altro. È il regno della gratuità, dove addirittura non è autoreferenziale a se stessi, ma immetti dentro questa energia del bene comune che raggiunge, rimette in moto, ricostruisce legami, vede la si indigna e riporta dentro questo. Abbiamo bisogno di una società civile, lo diceva anche Mazzolari continuamente, entusiasmando i giovani a dire riprendete dentro su questo. Scriveva poi anche col coraggio di denuncia, di profezia, ma con sempre la capacità, stando dentro nella sua cultura, nella sua visione, nelle sue difficoltà, però il bisogno di politica. E lo dico proprio in un periodo dove questa parola sembra certamente corrotta, e lo è. Va ripulita continuamente, scavata dentro in un bisogno che nasce dal nostro essere in relazione con gli altri, dal cercare di gustare, di riprogettare poi il futuro, per ritornare poi a trovare la politica del possibile, del bene possibile, che è il tema della gradualità, il tema delle categorie, della mediazione, per poi rilanciare l'utopia che rimette in discussione anche gli equilibri raggiunti. Questo vale anche per le città, vale per dove si costruisce la città, che si incontrerà soprattutto, e qui arrivo alla conclusione della prima, è chiaro che le città poi avranno di fronte questo strano paese che ha parlato tanto di federalismo, ha parlato tanto di decentrare sul territorio e svuota sul territorio poi la potenzialità, per cui sembra di essere ormai quelli che devono gestire la conflittualità dei cittadini, della grande politica che di fatto è fatta e che poi riduce, che è strategica, che sembrano i salvatori del paese, poi rilasciano sul territorio locale evidentemente alla fatica della gestione del quotidiano le contraddizioni molto più forti. Noi che nasciamo anche con ipotesi sturziane o di altri del welfare municipale ci ritroviamo conto che invece il comune è il luogo dove si scarica la conflittualità. Io riprenderò poi magari in un altro intervento questo rapporto stretto tra solidarietà, legalità, tra capacità di intervenire dentro, perché questa è l'altra dissociazione culturale che si è prodotta, dove sembra che quelli che partono di solidarietà, una solidarietà che viene vista non come capacità di costruire legami, ma quasi aggiunta al sistema, e poi sembra che allora la legalità trasformata in ragioni di sicurezza da ordine pubblico diventa di altri. Noi abbiamo negli anni passati, 70, dire sicurezza significava dire sostanzialmente le politiche delle garanzie di sicurezza erano quelle della sicurezza sociale. Dopodiché invece la parola sicurezza è stata strappata dalle dinamiche sociali e portata in problema di ordine pubblico, semplicemente di paura e di controllo. Noi dobbiamo restituire questa domanda di serenità e di sicurezza stando dentro nelle situazioni, facendo intravedere il possibile, che non è mai l'ottimo, ma ricostruendo continuamente questa capacità. La fatica della politica diventa evidentemente un'esigenza quanto mai importante, che ha bisogno di cultura, di idee, di voglia di stare nel mezzo. Grazie a Don Virginio che ha fatto questa prima introduzione su moltissimi temi sui quali poi torneremo nel secondo giro di domande. Io ora voglio passare la parola ad Umberto Ambrosoli. Umberto Ambrosoli è un avvocato penalista, è membro del Comitato Antimafia di Milano. Umberto Ambrosoli è conosciuto anche per essere figlio di Giorgio Ambrosoli, avvocato che è stato assassinato l'11 luglio del 79 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona, in stretto collegamento con la mafia. Ambrosoli aveva indagato per conto della Banca d'Italia sulla banca privata italiana, la banca che era nata dalla fusione di due banche, che era una banca guidata da Sindona. Ambrosoli, indagando, aveva scoperto che questa banca aveva una doppia contabilità: da una parte svolgeva operazioni legali, dall'altra parte invece svolgeva operazioni sospette, criminali. Una volta che Giorgio Ambrosoli lo scopre, iniziano per lui anche i guai, purtroppo. Viene minacciato più volte e gli viene detto di non rivelare il fatto che Sindona è, il coinvolgimento di Sindona è doloso. Gli si fanno pressioni in modo che Ambrosoli ceda e dica che in realtà Sindona era in buona fede, ma Ambrosoli tiene troppo al suo ruolo professionale, al suo ruolo pubblico, al suo ruolo di servitore dello Stato, e non cede, e paga purtroppo con la morte questa sua responsabilità, questa sua fedeltà alle istituzioni. Umberto Ambrosoli, innanzitutto parlaci di cosa significa responsabilità nella vita di ogni giorno, nella professione, e parlaci un po' del senso di questo libro, Qualunque cosa succeda, che è edito da Sironi, che parla appunto della storia del padre nelle parole del figlio. Prego. Grazie per avermi coinvolto in questa serata a riflettere nell'imminenza di un momento importante per questa città sul tema della responsabilità. Ma responsabilità ha un significato che è poi quello etimologico: rispondere. Rispondere a che cosa? Rispondere alle esigenze che ci circondano e che ci animano. Rispondere a noi stessi, rispondere alla realtà nella quale viviamo. Rispondere attraverso quelle che sono le nostre possibilità, le nostre capacità, le specificità di ciascuno di noi. C'è la possibilità di analizzare il concetto di responsabilità dal punto di vista professionale, ma alla fine, arrivando al nucleo, non ci spostiamo dal concetto di responsabilità politica, non ci spostiamo dal concetto di responsabilità sociale. La possibilità di ciascuno di noi di contribuire allo sviluppo della realtà nella quale opera. Lo strumento è poi quello della professione, piuttosto che della società, piuttosto che tantissime altre possibilità che abbiamo. La responsabilità nella famiglia, la responsabilità di genitore, per tornare a uno dei concetti espressi in esordio da Coerenza. Il problema è capire quanto ciascuno di noi abbia la possibilità di esercitare la propria responsabilità. C'è una parola che non possiamo non prendere in considerazione quando parliamo di responsabilità, e è libertà. Libertà e responsabilità sono, da certi punti di vista, dalla stragrande parte dei punti di vista, due lati di una stessa medaglia. È pressoché impossibile concepire la possibilità di esercitare la responsabilità se non si è liberi. Se lui è capace di una forza straordinaria su di me, di una forza per me invincibile, e mi comanda, quello che io faccio non vede me come responsabile, vede me come strumento, e annulla la sua forza, la mia responsabilità, la sua capacità di negare, non ti farà pubblicità questo esempio, ma la sua capacità di negare la mia responsabilità annulla il senso stesso del mio gesto, trasformandolo in tutto e per tutto in un gesto suo. E la stessa cosa vale anche l'incontrario. Ora, dicevo, il problema è cogliere la possibilità di esercitare la propria responsabilità nel contesto sociale nel quale viviamo, in primo luogo attraverso la difesa profonda della libertà di ciascuno di noi. Non sono mica tanto sicuro di aver capito uno dei concetti che è stato spiegato all'inizio. Io non so se è l'altro che nel suo assoluto, nella sua forza assoluta, anzi se è il fatto di essere ciascuno di noi responsabile nei confronti dell'altro che caratterizza l'identità di ciascuno di noi, che rende unico ciascuno di noi. Io, da questo punto di vista, l'unicità la vedo nella capacità di ciascuno di noi di determinarsi in termini diversi rispetto agli altri. Nella possibilità di ciascuno di noi, anche rispetto al tema della responsabilità, di assumere delle scelte autonome. Quindi, secondo l'esempio che dicevo prima, di poter servire gli altri in una maniera piena solo nel momento in cui ciò è frutto di una scelta in tutto e per tutto autonoma di ciascuno. Come declinare nel nostro presente la responsabilità dei cittadini. In un contesto, quello del nostro presente, in cui abbiamo la sensazione, forse spinta un pochettino da un pessimismo che ci pervade o da una certa rassegnazione che i tempi rendono comunemente diffusa, la sensazione, dicevo, che le scelte che caratterizzano l'evoluzione della realtà sociale cittadina nella quale viviamo siano prese altrove. Qual è lo stimolo a una partecipazione nella vita cittadina che vada oltre l'essere soggetto che da un lato pretende determinati semplici servizi, dall'altro è chiamato a contribuire il più delle volte quasi esclusivamente dal punto di vista economico-finanziario? Produrre, versare. Dobbiamo guardare delle situazioni estreme per chiederci se è proprio così. E una delle situazioni estreme che personalmente mi lascia molto ottimismo è un'esperienza lontana da noi, in un contesto dove proprio il tema della libertà è fortemente condizionante, in senso negativo, la privazione della libertà, in un contesto dove lo sviluppo sociale si è pesantemente rallentato proprio in ragione di quella privazione di libertà. E l'esempio che mi viene in mente, anche sfruttando il calendario, è quello di Palermo. Palermo è una città dove spesso si è sentita dire la frase «la speranza è finita». Voi ricorderete quando è stato assassinato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ricordo quest'anno, i 30 anni, nel luogo dove l'omicidio ha avuto esecuzione è stato appeso la mattina dopo un cartello: qui muore la speranza dei cittadini per bene. 20 anni fa, 21 anni fa, in quella città è stato ucciso un imprenditore. Bravissimo, Libero Grassi. Libero Grassi ha avuto una colpa principale, quella di opporsi a un fenomeno che aveva raggiunto dimensioni di carattere proprio culturale, che era quello del pizzo. Tanto aveva raggiunto dimensioni culturali che non vi erano denunce. Era accettato come una caratteristica dell'economia locale. Attenzione, non accettato con entusiasmo, ci mancherebbe. Era un sacrificio, un dolore, il più delle volte era imposto attraverso anche la violenza fisica o comunque una paura che fortemente limitava la libertà di colui che era chiamato a versare il pizzo. Libero Grassi, da imprenditore, dice: ma io come posso fare l'imprenditore e pagare il pizzo? Sono due mondi diversi, io mi devo confrontare con gli altri imprenditori in situazioni di concorrenza, ma di una concorrenza che sia propositiva, E quindi non sul fatto che nessuno dà fuoco alla mia azienda, ma sul fatto che la mia azienda produca le cose migliori, si affermi sul mercato. E attraverso la produzione di cose migliori stimoli altri a produrre cose ancora migliori e ad affermarsi meglio di me sul mercato, così mi tiene vivo, non semplicemente ritagliandomi una fetta di sicurezza. E in forza anche dell'impegno politico che aveva rappresentato in tanti momenti della sua vita, Libero Grassi decide non semplicemente di opporsi al pagamento del pizza, ma di fare una vera e propria battaglia. Una battaglia che lo porta a pubblicare su un giornale cittadino le lettere al mio caro estorsore, attraverso le quali spiega le ragioni logiche che impediscono lo sviluppo dell'economia siciliana gravata da un condizionamento forte come quello mafioso, partendo proprio dall'esempio del pizzo. Ma le lettere al mio caro estorsore diventano anche un atto di accusa politica. Perché? Perché sia a livello di politica intesa come amministrazione della città, sia di quell'altro segmento della politica, quello proprio dell'Associazione degli Imprenditori Siciliani, egli non trova nessun genere di solidarietà, anzi, viene messo alla berlina dagli imprenditori siciliani che si risentono del fatto che lui dica: ma voi altri imprenditori come fate a non ribellarvi? Si risentono e dicono: i panni sporchi si lavano in famiglia, esprimendo una sintonia culturale esattamente con chi era alla fonte del problema che Libero Grassi stava rappresentando. Egli viene assassinato dopo che per due volte avevano devastato la sua azienda e lui l'aveva ricostruita. Viene assassinato perché era diventato un simbolo, perché la sua capacità di dire no non è stata mai piegata. E allora il simbolo va spazzato via. Quanti esempi abbiamo così? Quanti esempi, e non abbiamo bisogno di guardare solo al sud dell'Italia. Orbene, da quella morte è nato un movimento di affermazione della propria responsabilità. È un movimento che ha pervaso l'Associazione degli Imprenditori Siciliani, che è passata nel giro di pochi anni dal negare un problema, considerando colui che pagava il pizzo come una vittima, al fare una campagna per distruggere il problema, per annientarlo, per superarlo, considerando colui che si piegava al pizzo un complice. Certo, un complice per pavidità, una pavidità che però l'esperienza spesso aveva rappresentato essere connessa alla cultura della coltivazione dell'interesse personale, perché tanto danno fuoco alle aziende di tutti gli altri, la mia sta in piedi e io mi affermo, in un'interpretazione tutta sbagliata del concetto di responsabilità imprenditoriale. E oggi è già da un po' di anni, abbiamo l'Associazione degli Imprenditori Siciliani che dice: chi accetta di pagare il pizzo non può far parte dell'Associazione degli Imprenditori Siciliani. Ma l'affermazione di questa cultura, nuova da certi punti di vista, per quel territorio, per quella storia, sarebbe stata possibile se isolata, sarebbe stata possibile cioè se tutte le altre parti della società avessero detto: vadano dove vogliono, ma noi continuiamo nell'altro modo, e non sarebbe andata da nessuna parte. Se, proprio raccogliendo l'esempio di Libero Grassi, un gruppo di giovani studenti, perché poi ci sono gli studenti bamboccioni, ma quella è un'altra categoria, non avesse pensato di dover vivere la propria responsabilità, non si fosse cioè interrogata su che cosa poteva fare per aiutare le categorie della società a reagire a quello stesso fenomeno. Le categorie diverse dagli imprenditori che già avevano iniziato a porre i segni di una riscossa, o perlomeno di una reazione. E questo gruppo di giovani ha avuto un'idea semplice. Io non sto rispondendo alla sua domanda, perlomeno non raccontando quella storia. Un'idea semplicissima: il pizzo, oltre che agli imprenditori, viene imposto ai commercianti. si sono messi a pensare come potevano convincere i commercianti a reagire. Come potevano convincere i commercianti, ovviamente non tutti, perché qualche caso un pochettino isolato, che continuava a dire no, io non accetto di pagare il pizzo, esisteva. Come coinvolgerli in una sorta di alleanza contro la continua affermazione della cultura mafiosa. E hanno avuto un'idea semplicissima. Hanno detto, caro commerciante, noi siamo tanti, noi ti promettiamo tutta la solidarietà del mondo. Se tu avrai voglia di appendere sulla tua vetrina un adesivo appendendo il quale assumi l'impegno a denunciare colui che dovesse venirti a chiedere di pagare il pizzo. L'adesivo riporta una scritta vistosa, addio pizza. All'impegno inizialmente rispondono quasi solo, anzi alla proposta inizialmente rispondono quasi solo, quei commercianti che già avevano fatto una scelta di campo, avevano vissuto la loro responsabilità nei confronti di quello specifico problema, o attraverso la reazione a quello specifico problema. Ma piano piano, complice una serie di situazioni contingenti, quel numero è iniziato a crescere, anche perché quello stesso gruppo di studenti ha detto, noi ti promettiamo la nostra solidarietà, non è che risolviamo i tuoi problemi di commerciante, forse ti siamo d'aiuto, forse, nel momento in cui tu dovessi avere dei problemi, ma noi vogliamo che appendendo questo cartello, questo adesivo, tu abbia anche dei vantaggi concreti, immediatamente tangibili. Se tu vendi l'acqua a un determinato prezzo, che non tiene conto del pagamento del pizzo, perché tu non lo paghi, e il negozio di fianco a te, pur pagando il pizzo, per una scelta di colui che lo sottopone al pagamento del pizzo, inizia a vendere quella stessa acqua alla metà del prezzo, per ucciderti, per farti chiudere. E tu come fai? Allora l'idea di addio pizza che cosa l'hanno accompagnata? L'hanno accompagnata al consumo critico, allo sviluppo di un movimento di consumo critico, che non fosse per i chilometri zero piuttosto che per le cose naturali, coltivate senza pesticidi o quant'altro, ma che fosse sull'emergenza sociale che Palermo stava vivendo ancora in quel periodo. Beh, guardate che a distanza di più di 10 anni si verificano 2 fenomeni. Il primo, rispondendo alla prima esigenza di addio pizza, nei processi per criminalità organizzata di stampo mafioso, in particolar modo quel settore di criminalità che si va a occupare, quel settore di processi che si va a occupare di estorsione, i pentiti iniziano a dire che da qualche tempo a questa parte loro non entrano più. Quando devono fare una proposta estorsiva, una richiesta estorsiva, in un negozio che espone il cartello addio pizzo. Perché dal punto di vista percentualistico, il rischio di essere effettivamente denunciati si è dimostrato maggiore rispetto agli altri negozi. E allora abbiamo un consumo critico all'incontrario. Ma arrivando all'aspetto invece del consumo critico, che cosa succede? Che oggi l'associazione Addio Pizzo è chiamata a un vaglio particolarmente scrupoloso delle domande di adesione, perché vi sono delle richieste di carattere meramente opportunistico che nulla hanno a che vedere con la volontà o con l'intenzione o con la disponibilità a denunciare il mafioso che va a fare la richiesta estorsiva, e tutto hanno a che vedere solo ed esclusivamente col fatto che avere quell'adesivo premia in termini economici perché vanno più persone ad acquistare. Questa è una storia di responsabilità, è quella degli imprenditori, lo è quella dei commercianti, lo è quella degli studenti che hanno avuto l'idea, la capacità di coinvolgere, l'attenzione, perché non si è fermata lì. Da quell'esperienza ne è nata un'altra, che ha pochi mesi di vita adesso e che racchiude in provincia di Palermo, in un'unica promessa divisa in 10 punti, oltre 1000 professionisti. professionisti inteso in senso non propriamente legale, sì è vero, ci sono i notai, ci sono gli ingegneri, ci sono gli avvocati, ci sono i medici, cioè tutti i soggetti iscritti a un albo professionale, ma ci sono anche i docenti, ci sono i geometri, ci sono i ragionieri, un insieme di persone che si riunisce intorno a un impegno declinato, come vi dicevo, in 10 punti specifici, in 10 condotte specifiche, che nella sostanza è: io non voglio, attraverso la mia professione, aiutare l'affermazione di un soggetto mafioso. Guardate, l'impegno sembra generico detto così, certamente, ma infatti è declinato in punti molto più puntuali, ma sembra anche un po' velleitario, o se vogliamo teorico. Però pensate che cosa vuol dire per un ingegnere specializzato nella progettazione di case o di capannoni industriali o di villaggi turistici. Che cosa vuol dire in quel territorio dire: io non avrò come cliente chi appartiene a quel mondo? Vuol dire rinunciare a delle prospettive economiche estremamente vantaggiose. Di più, vuol dire rinunciare a delle prospettive di lavoro, prima ancora che di risultato economico, proprio la possibilità di fare le cose. Pensate che cosa vuol dire per un commercialista. Per i notai deve essere un po' diverso, se è vero, come è vero, che nel primo semestre del 2011 la normativa antiriciclaggio che impone la segnalazione delle operazioni sospette, prima fra tutte quelle di trasferimento di proprietà immobiliare, ha visto 2 segnalazioni in tutta la Sicilia da parte di notai, ma pian piano ci si arriverà. Perché queste persone sentono l'esigenza di assumere un impegno così pregiudizievole per loro? Perché i professionisti? Perché i commercianti? Perché gli imprenditori? Se fossero concentrati sul proprio interesse? Io penso che la risposta sia esattamente la parola intorno alla quale ci incontriamo: la consapevolezza della propria responsabilità. La consapevolezza cioè del fatto che le proprie azioni non si fermano ai confini della propria dimensione esistenziale, non si fermano alla loro identità, non si fermano neanche al presente, o se vogliamo alla loro vita dal punto di vista anche solo cronologico temporale. Le nostre azioni hanno un effetto che va ben oltre quello che noi riusciamo anche a immaginare. Questa consapevolezza è la ragione dell'assunzione di un impegno. Per una generazione futura, con l'esempio che ci è stato fatto prima, sì, caspita se non è uno stimolo quello, ma non per gratitudine alle generazioni passate, e dobbiamo avere, ma per dare un senso al nostro presente, per dare un senso alla nostra esistenza. E quel senso lo dà la nostra responsabilità. Lo dà solo la nostra responsabilità. Oddio, non solo, ci mancherebbe, le motivazioni possono essere tantissime, ma l'appagamento, la soddisfazione, l'idea di lasciare qualcosa, donare, non è quello che ci riempie. E da questo punto di vista non è proprio la politica l'esperienza più bella, più genuina, più profonda. In questi giorni è difficile dirsi, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, in questi decenni, ma pensiamo alle parole con le quali, visto che siamo in imminenza di una ricorrenza importante, con le quali alcuni partigiani delle esperienze, anzi delle provenienze più disparate, hanno salutato la vita. Le lettere con le quali, rivolgendosi giovanissimi, 21 anni, 23, 25, 19, rivolgendosi dopo 20 anni di dittatura, quello è il mondo che avevano conosciuto, quella era la loro esperienza diretta, rivolgendosi a un futuro che non li vedeva più protagonisti, perché magari scrivevano da una cella in attesa dell'esecuzione che li attendeva, invitavano i loro familiari, i loro amici, le generazioni future a credere nella possibilità di ciascuno di noi di prendere parte alla gestione della società. Quella volontà di affermazione della propria responsabilità, di condivisione dei propri pensieri, del proprio entusiasmo, delle proprie energie. E quella è la politica. Interrogarsi, non sulle proprie esigenze, ma sulle esigenze degli altri. Adoperarsi per rispondere a quelle esigenze. Se no non è politica, se no è affermazione di sé. Va benissimo, un moto umano. Ma quella non è politica. Ora, sempre tornando a zone non particolarmente fortunate del nostro territorio nazionale. Qualche giorno fa voi avrete letto delle minacce che ha subito un sindaco, una donna con una tempra molto particolare, in un paese della Locride, un paesino piccolo, poche migliaia di abitanti, è Monasterace. C'è una cattedrale bella, con un bel museo, c'è una piccola abbazia e basta. Minacciata in tanti modi diversi. Questo è il suo secondo mandato, se non sbaglio. Siamo a metà del suo secondo mandato. E le minacce sono sempre diventate più significative. Alcuni mesi fa è stato dato fuoco alla farmacia del sindaco. E al piano di sopra vive la sua famiglia, eh? I genitori anziani, i figli. Bruciando quella farmacia hanno tolto lavoro a 4 persone. Al di là del danno diretto al sindaco. E poi degli spari sulla sua vettura. E ha avuto un momento di sconforto il sindaco. Ha detto io mollo tutto. Io mollo tutto perché non ha senso, non serve quello che faccio. Molti hanno pensato che fosse un annuncio di dimissioni polemico. Ha detto, ma polemico è un bel niente, non è questione di polemiche, è prendere atto della realtà. Guardate, a me non fa paura, o perlomeno non è che mi dissuade dal continuare con il mio impegno il fatto di non fuoco la mia farmacia. Certo, mi provoca un danno enorme, mi spaventa, mi fa paura per i danni che poteva produrre a delle vite. E non so neanche i colpi di pistola sulla mia macchina. Non è quello. Il problema è che in quasi 7 anni di mandato, alle grandi parole di coinvolgimento di tutti in una occasione di rinascita del nostro territorio, al tentativo di condividere con tutti la responsabilità della gestione della cosa pubblica, cioè di far fare a tutti la propria parte anche, la risposta che è stata data è stato il disinteresse. Di più, perché si permettono di sparare sulla mia macchina o di dar fuoco alla mia farmacia? Perché qualche tempo fa abbiamo iniziato a chiedere il pagamento delle bollette dell'acqua, cosa che nessun sindaco su quel territorio aveva mai fatto. E c'erano degli arretrati enormi e c'erano soprattutto dei danni molto consistenti per le casse comunali. Pagare l'acqua a un ente pubblico in ragione del servizio che viene erogato, che ha un costo. Le minacce, cioè quelle che hanno permesso gli spari, il fuoco, eccetera, sono nate lì, in un contesto dove, toccati sui propri interessi diretti, molti hanno iniziato a dire, beh, vabbè, no, ma allora cosa vuol dire? Cos'è la legalità? Era prendersela con gli altri, mica prendersela con me che non pago. O a dissuadere dall'impegno era il fatto che si dice facciamo ripartire dal punto di vista turistico il nostro territorio e se si trova tutto l'entusiasmo di tutti i cittadini, sì, perché qui è bellissimo, è fantastico, si potrebbero fare delle cose stupende. Beh, se mandiamo la nettezza urbana a togliere, cioè il servizio della nettezza urbana a togliere i materassi, i frigoriferi abbandonati, Non è che 10 giorni dopo li dobbiamo ritrovare. Su questo chiedeva solidarietà quella donna. Non la solidarietà rispetto all'attentato o alla minaccia. La solidarietà dei suoi cittadini rispetto a un impegno di responsabilità nei confronti di tutti gli altri. Quel sindaco ha ritirato poi la sua minaccia di dimissioni, non perché è andato giù il segretario nazionale del suo partito, non perché le è stata affidata una scorta, ma perché questa è la sua speranza, sulla base di piccoli segnali, perché i suoi cittadini hanno capito che si dovevano mettere in gioco loro per la crescita del loro territorio, per l'affermazione delle proprie identità in relazione al proprio territorio. Grazie. Grazie Umberto Brosoni, che ci ha dato molti spunti, soprattutto degli spunti per superare, per rompere il circolo vizioso dell'individualismo, della chiusura, per ribellarsi con coraggio, per dire di no, per saper dire di no, per saper indignarsi, una parola che è tornata di moda grazie a quel fortunatissimo libro di Partigiano Francese, indignatevi, indignatevi, svegliatevi, mettete in campo le vostre capacità e non accontentatevi del quotidiano, di quello che conoscete, delle logiche che continuate a seguire in modo ripetitivo, pensando forse che siano le uniche logiche possibili. Io adesso darei la parola a Gisella Introzzi, che guida la lista Amo la mia città, con cui ci conosciamo da abbastanza, penso, da poco però, diciamo dall'inizio del suo percorso politico. Un percorso inedito, in quanto Gisella ha una lunga esperienza di 40 anni, 41 anni di attività nella pubblica amministrazione, dove si è occupata di varie cose. Prima di tutto si è occupata dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Como, poi ha lavorato nella Camera di Commercio a Milano, poi al Consiglio di Borsa a Milano, quindi una breve parentesi nel privato, per poi tornare nel pubblico a dirigere Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio della Lombardia. Da Gisella mi piacerebbe sentire come ha vissuto questo passaggio dalla responsabilità professionale nel pubblico, comunque nell'attività professionale, alla responsabilità politica che sta vivendo in questi mesi, di sua esperienza prima nella campagna delle primarie e poi con l'idea, assieme a una serie di gruppi e di persone, di creare una lista civica. Quali sono le difficoltà che hai incontrato? Cosa secondo te si può migliorare nella politica? Quali sono il bagaglio di esperienza qual è il bagaglio di esperienza che vuoi mettere a disposizione o che ti sembra giusto mettere a disposizione della politica? Io ho letto oggi un pezzo di lettera che è stata spedita nel 75 da Giorgio Ambrosoli alla moglie, nella quale dice, parlando della sua esperienza come liquidatore della banca di Sindona, dice: ricordo le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo ed ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici. Questa è la riflessione che faceva Giorgio Ambrosoli parlando del suo incarico professionale, un incarico che poi riveste, si carica di un ruolo fortemente politico. Ecco, Gisella, raccontaci un po' come hai fatto politica prima e come la stai facendo adesso. Grazie, uso questo. Grazie. Prima però di rispondere a questa domanda di Mauro, che conosco, lo ricostruisco dal mese di settembre, credo, cioè da quando ho deciso di entrare in questa avventura, prima delle primarie e ora per le elezioni amministrative. Sento proprio bisogno fortissimo di ringraziare sia Don Collegna che Ambrosoli, perché sostanzialmente con le parole che hanno rivolto, con questa loro carica, con questo loro forte appello alla responsabilità, all'impegno, alla possibilità di cambiare le cose, mi sembra che siano riusciti in un modo bellissimo a dare un riconoscimento all'impegno che le persone che stanno giocandosi in questa lista assieme a me stanno mettendo, nel senso che proprio le parole della politica come il regno della gratuità, il bisogno di politica per ritrovare, per avvicinarci il più possibile ad un disegno, ad un'utopia, ad un disegno alto e diverso di società, affrontando nello stesso tempo la concretezza dei piccoli problemi che ci sono di fronte, mi sembra che sia esattamente la descrizione di quello che con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre fatiche, questo gruppo di persone sta tentando di fare, con un percorso sicuramente molto originale, che io in alcuni momenti forse ho avuto il dubbio che possa sembrare un po' velletario o ingenuo, ma che in realtà, ripeto, con le vostre parole mi fate invece percepire con forza come alto e come corrispondente ad un modo nuovo di fare politica e di lavorare per il benessere della nostra comunità. E altra cosa importante, attraverso il lavoro per il benessere della nostra comunità, lavorare per il nostro personale benessere, proprio per essere in un modo diverso all'interno della nostra città e della nostra comunità. Ma ringrazio Mauro per questa domanda, che appunto mi consente di fare un ragionamento molto, molto più, diciamo così, legato alla concretezza e limitato, ma che è la concretezza che deriva appunto dalla mia esperienza, perché esperienza di tantissimi anni di lavoro nel pubblico. Anche il passaggio che è stato citato nel Consiglio di Borsa in realtà è stato un passaggio in un settore pubblico, perché in quegli anni la borsa, il mercato finanziario, non a caso veniva ridisegnato all'interno di un quadro normativo che era pubblico, poi superato dalla privatizzazione, e che nelle mie personali valutazioni è una delle cause poi per un progressivo distacco della dimensione finanziaria dall'economia reale. Ma non affronto qui questo ragionamento rispetto su una modifica, un cambiamento istituzionale molto forte. E responsabilità politica, allora, si diceva. In effetti, se responsabilità in senso generale vuol dire rendere conto in qualche modo di quello che viene fatto, il significato della responsabilità politica è quella che dar conto di quello che il nostro impegno, l'impegno di chiunque si occupi di cosa pubblica, voi come amministratore, voi come dirigente pubblico, di rendere conto di quali sono i risultati che appunto questa attività fa, ripercuote sulla gente, sulla collettività, sulle condizioni di vita delle persone. E la prima considerazione che mi viene da fare è che questa responsabilità deve essere fortemente ancorata a dei principi di moralità, e di una prassi etica nello svolgimento delle attività quotidiane. Io credo che il grosso problema che stiamo attraversando è che questo rapporto, questo ancoraggio si è più affievolito all'interno delle strutture, quindi faccio riferimento alla categoria dei dipendenti pubblici, proprio in conseguenza, senz'altro in buona parte in conseguenza del venir meno di principi di questo tipo da parte degli amministratori, dei politici, che hanno quindi la responsabilità di crearsi, di mantenersi e in molti casi di trarre vantaggio proprio dal fatto di costruire delle strutture attorno a loro che non sono certo fondate su una valutazione, su una selezione in base alla capacità di assumersi responsabilità e di avere principi morali molto saldi, ma rispetto a tutt'altre logiche, dove senza entrare nel campo delle convenienze, delle connivenze che penso siamo purtroppo costretti ad osservare sempre più spesso, quindi di politici che alla carica di dirigente attorno a sé selezionano persone non certo in base a requisiti appunto di capacità di rispondere a un interesse collettivo, ma per sostegno del resto del sistema, la scelta di uno spoil system che dà assolutamente, che autorizza assolutamente la scelta di dirigenti in corrispondenza di una affinità, di una vicinanza ai politici che sono in carica al momento, piuttosto che seguire una logica di reclutamento fondata sulle capacità, ne è una testimonianza, ma ne è anche nelle situazioni, diciamo, di non appunto non di connivenza, c'è comunque senz'altro una evoluzione culturale che porta ad enfatizzare gli aspetti prettamente tecnocratici in modo eccessivo rispetto ad altre caratteristiche altrettanto importanti in base ai quali dovrebbero essere selezionati i manager, che sono appunto la capacità, mi piace moltissimo il riferimento che faceva Don Colmegna inizialmente, e quindi sulla soggettività di questi individui che deve essere in grado di tessere relazioni, di sviluppare all'interno della comunità di cui si occupano, di sviluppare delle relazioni positive. Mi limiterei in questo caso soprattutto a due aspetti che io trovo molto, molto particolari, e che sono una delle difficoltà maggiori, in questo caso mi riferisco proprio alla parte del dirigente pubblico, e che non, una delle difficoltà maggiori io credo che sia quello di avere il coraggio di assumere delle scelte difficili, delle scelte impopolari. Nel senso che poi rimanda al discorso molto diffuso del chi te lo fa fare. Quindi il lasciar correre, il lasciare che le cose non scontentare troppo, e attenzione, è il non scontentare troppo né chi sta sopra né chi sta sotto molto spesso, anche degli atteggiamenti non sufficientemente esigenti nei confronti delle strutture che si ha la responsabilità di portare a certi risultati, così come la compiacenza nei confronti appunto di amministratori, secondo me è una delle cause che tra l'altro ha portato ad una questa situazione di sfascio della pubblica amministrazione. Uso un termine un po' forte, ma credo che se lo guardiamo su un lungo periodo non si possa fare a meno di dare questa definizione, che è ancora più è stato ancora più gravido di conseguenza, perché poi la situazione che vediamo è che porta ad una cura rispetto ad un scarso, insoddisfacente funzionamento della pubblica amministrazione, che è ancora più grave perché è quella dei tagli indiscriminati, dell'immaginare, nel avvalorare un'ipotesi per cui tutto ciò che è gestito dal pubblico sia automaticamente gestito male, sia inefficiente, e che solo una gestione privatistica possa invece dare dei risultati. Quindi la responsabilità, in questo caso la responsabilità di un dirigente pubblico, è senz'altro la responsabilità di sapersi assumere, di saper assumere anche delle scelte faticose, delle scelte dolorose, delle scelte che nei confronti anche delle persone che lavorano accanto a loro devono essere, la denuncia, secondo me, importante di una pubblica amministrazione che, laddove fa delle valutazioni rispetto alla produttività, al raggiungimento degli obiettivi, nella stragrande maggioranza dei casi si conclude con una valutazione generalizzata di ottimi risultati, è una conferma di una appunto scarsa preparazione, scarsa responsabilità appunto a livello dirigenziale, che ancora una volta anche in questo caso produce delle risposte assolutamente distorte, perché se poi ce la immaginiamo che sia alla brunetta, per cui la risposta è semplicemente quella che bisogna dare per percentuali, sappiamo assolutamente quanto questo sia distante da quello di cui c'è bisogno. E un altro aspetto sempre di secondo me particolarmente importante nell'esercizio di responsabilità da parte di una dirigenza pubblica, sto ragionando sempre sull'aspetto della struttura prima di quello degli amministratori, anche perché la mia esperienza per ora è questa, è quella di riuscire a coniugare legalità con giustizia, e mi spiego meglio, che si debbano rispettare rigorosamente procedure, leggi, eccetera, questo è diciamo è assodato, è un passaggio molto importante, però credo che si debba avere in molti casi anche la capacità di riuscire a fare una valutazione attenta se quello, se la, perfetto, se l'applicazione della legge è quella che riesce a garantire la giustizia, o se invece l'obiettivo della giustizia, l'obiettivo dell'uguaglianza nel trattamento dei cittadini non debba richiedere un surplus di attenzione, di intelligente applicazione delle norme nel costruire un percorso che, oltre che corrispondente alla legge, si avvicini sempre di più anche ad una giustizia sostanziale. Penso che questo comportamento in negativo lo si possa constatare anche qui in uno dei luoghi comuni di tante risposte che sono: la legge non lo permette, i regolamenti non lo consentono. Ecco, il riuscire svolgere le proprie attività, i propri compiti, ripeto, senza perdere di vista quello che è l'obiettivo finale del proprio mestiere e quello che è l'obiettivo di garantire servizio, diritti ai cittadini, pur forzando in una interpretazione della legge che si guardi alla sostanza e non solo alla forma, mi sembra che sia un altro degli aspetti importanti che caratterizza l'ambito di esercizio di responsabilità da parte dei dirigenti. Ma passando rapidamente ad un altro commento che volevo fare è di quanto la qualità degli amministratori che sono a capo di queste strutture determini e renda possibili certi comportamenti o meno. In questo senso mi ritrovo forse un po' nelle parole di Ambrosoli, che diceva che l'esercizio della responsabilità presuppone una condizione di libertà. Io mi ritrovo molto in questa affermazione. In questo caso, probabilmente più che condizione di libertà, preso l'esercizio pieno della responsabilità presuppone in questo caso il lavorare in un contesto che rispetto a certe finalità sia fortemente orientato. Credo che il caso di impedimento nello svolgere, questo ovviamente non crea delle giustificazioni per tutta la parte della dirigenza pubblica che non fa fino in fondo la propria attività, però credo che sicuramente molte dei condizionamenti derivano da un atteggiamento o di disinteresse o comunque di contrapposizione rispetto alle attività. Cito in questo caso un esempio che mi ha molto colpito, che cercavo di ricostruire con degli amici anche prima dell'inizio di questo incontro, e che a me è sembrato molto mi ha toccato molto quando è una vicenda cittadina che riguarda le vicende delle paratie sul lago, che noi conosciamo molto bene, e leggevo, credo nel mese di settembre o che altro, un articolo sul nostro quotidiano cittadino che parlava delle indagini in corso da parte della Procura e che non era e non è tuttora arrivato ad una sentenza definitiva, quindi erano soltanto, diciamo, riferiva su alcuni accertamenti che erano stati fatti e citava un elenco molto lungo di dirigenti che in tutte queste vicende avevano avuto una parte, dirigenti del comune di Como, dirigenti regionali, dirigenti della provincia, cose varie. Ecco, e il commento che faceva rispetto alle responsabilità di queste persone, al di là dell'accertamento di responsabilità dirette con conseguenze penali o meno, era che di sicuro un comportamento che era stato osservato e che era comune a tutte queste persone era quello di una omissione nello svolgimento fino in fondo delle proprie responsabilità per non ostacolare un progetto la cui rilevanza evidentemente veniva percepita come sopra neanche da mettere in discussione. Grandi opere, grandi benefici attesi per la nostra città e quindi nessuno aveva osato fare quello che il bambino della fiaba aveva fatto nell'indicare il re nudo e quindi si è andati avanti. Questa cosa mi aveva colpito veramente molto perché oltretutto scorrendo l'elenco di questi nominativi al di là cioè c'era per caso delle persone che conoscevo non a livello locale ma a livello regionale che io so benissimo essere delle persone di grande stima e assolutamente per bene, assolutamente attente a far bene il loro lavoro. Ecco, la preoccupazione di non essere il rompiscatole di turno che andava a guastare il bel giocattolo che era stato costruito, ecco, questo mi sembra che sia il meccanismo che è scattato e che è quello da cui ci dobbiamo guardare. E per guardarci di questa cosa occorre senz'altro riuscire ad avere degli amministratori onesti e corretti che consentano, che pretendano lo svolgimento delle attività dirigenziali, ma che allo stesso tempo consentano alle persone di farlo liberamente. E l'altra cosa che è fondamentale, un fortissimo controllo sociale e quindi una partecipazione molto più attiva dei cittadini a tutto quello che avviene all'interno dei palazzi. Grazie mille a Gisella Introzzi per questa testimonianza e per aver portato anche il discorso sulla responsabilità nella pubblica amministrazione e nella politica. Mi sembra che il denominatore comune dei temi che sono stati affrontati questa sera, uno dei denominatori comuni sia proprio la capacità di fare delle scelte faticose, a volte dolorose, sempre controcorrente, per non cadere nei tranelli dell'adeguamento alla logica comune, alle logiche che si ripetono per anni e anni tutte le istituzioni, non solo nella pubblica amministrazione, anche nelle società private. Ecco, io ora passerei la parola a voi, quindi non solo per fare delle domande ai nostri ospiti, ma anche per portare il vostro contributo alla discussione, per fare degli interventi. Chi vuole intervenire alza la mano, io scendo tra di voi e con il microfono e vi faccio fare la domanda, sperando che funzioni. Prego, presentati. Mi chiamo Anna Giannola, io vorrei fare una domanda a Don Virginio Cormenia. Io ho letto il suo libro che è molto bello, non per me solo, che è il racconto della sua vita esemplare a servizio degli altri. Mi è piaciuto anche perché spesso parla di felicità. E questa sera, anche questa sera, ha toccato questo argomento e vorrei chiederti di ritornare sul rapporto fra l'assunzione di responsabilità e la felicità. Ma per partire da me, io credo di aver capito cosa vuol dire l'assunzione di responsabilità quando in Benin ci siamo trovati di fronte a delle ragazzine che erano state vendute e maltrattate. In quel momento è stato impossibile per noi e penso anche per chiunque si fosse trovato lì, là, a non dare una risposta e non dare un aiuto. Così è nato il nostro progetto e non posso non dire che Don Virginio Combegna e il CEAS sono partner di questo nostro progetto. E mi sembra anche chiaro per Gisella che sia scattata anche per Gisella il suo senso di responsabilità nei confronti della città. Cioè, per Gisella credo che, sono sicura che ha messo, è andata in pensione, avrebbe potuto andare a spasso, ma ha messo la sua competenza, la sua passione di una vita intera a servizio proprio della sua città. Ecco, Don Virginio, ritorno alla domanda. Grazie Anna. Qualche altra domanda? O contributo, intervento? Giuseppe. Io porto un contributo legato ad una preoccupazione che credo che sia condivisa da numerosi cittadini e cittadine di Como, e che è il senso comune che si sta diffondendo di una crisi nel rapporto fra i cittadini e le istituzioni che è estremamente pericolosa. E diciamo così, io ho ascoltato con attenzione anche degli interventi di politici nazionali che sono venuti anche recentemente, anche politici di centrosinistra, che pongono il problema di rinnovare le istituzioni ritornando sostanzialmente a rivitalizzare il contenuto democratico della Costituzione, perché per processi che sono anche non solo italiani ma sono di portata internazionale, noi stiamo assistendo ad uno svuotamento progressivo degli stati nazionali, delle costituzioni democratiche, non liberali, delle costituzioni democratiche che sono nate nel Novecento, superando le vecchie costituzioni ottocentesche della difesa sostanzialmente dei cittadini proprietari. E noi assistiamo a questo processo estremamente pericoloso, contro il quale un gruppo di cittadini intorno a Gisella Introzzi ha ritenuto in città di portare un contributo che andasse nella direzione di rivitalizzare forme di partecipazione, non negando il ruolo dei corpi intermedi come possono essere i partiti, ma dal punto di vista critico anche di chi ha fatto parte dei partiti e in questo momento qui vede le difficoltà, vede il pericolo di una sorta di sclerosi progressiva, di intervenire anche in una piccola città come Como per cercare di invertire questa tendenza. Ed è stato importante che in questa città si sia creata una confluenza fra settori della borghesia riflessiva e illuminata della nostra città, che in altri contesti, in altre situazioni, non facevano magari riferimento al centro-sinistra, una parte della sinistra storica, appunto di quella che per esempio io stesso ho fatto esperienza nei partiti della sinistra storica, e una parte importante del mondo del volontariato. Mi è molto piaciuto quello che ha detto Don Colmegna, e io ho apprezzato molto i giovani cattolici del nostro gruppo, perché hanno pienamente dato esecuzione a quello che lei diceva di non compiacersi un po' in termini narcisistici della propria attività di volontariato, ma di fare il salto di qualità dell'impegno politico. Questo per la nostra città io credo che sia un altro fatto nuovo molto importante. La nostra esperienza ha dei limiti, ma sicuramente poi ci misureremo con il risultato elettorale, ma l'impegno nostro è di dare continuità, al di là di quelli che saranno i risultati elettorali di chi sarà eletto o non eletto in consiglio comunale. Grazie. Do la parola a Marco. Due pensieri. Uno, in questi anni mi sono impegnato per promuovere una responsabilità che entra nella sfera privata, quella degli stili di vita, non più sotto un aspetto sia sociale che anche spesso ecologico. Devo dire l'imbarazzo anche in questa nuova esperienza elettorale davanti a un degrado anche civico, bisogna ancora insegnare alle persone le basi di un impegno civico, per cui sembra quasi secondario andare a dire che nel modo di vivere, quella coerenza tra soggettività e tra pubblico e privato, tra vita pubblica e vita privata, in quella coerenza da ricostruire c'è uno spazio di fare politica molto importante, che ovviamente non deve rimanere nel privatistico, no? L'altro aspetto che nelle nostre discussioni realista viene fuori, una politica che oggi non può più fare grosse promesse perché i soldi non ce ne sono, no? E che forse è abituata troppo a muoversi dentro a logiche contabili, per cui abbiamo un bilancio, posso dare un tot per questo settore, un tot per quest'altro, dove i politici a volte nemmeno la conoscono la città. Parlando con un po' di persone con cui in questi anni ci si è attivati, si fanno delle cose concrete, si rispondono a dei bisogni, il feedback che purtroppo spesso è che le persone, la gente che ha dei bisogni si organizza per rispondere, perché comunque il palazzo, la politica non risponde più. E queste persone si organizzano e dicono: ma noi non abbiamo bisogno dell'istituzione. C'è un disattenzione anche a questo livello che trovo molto grave. Cerco allora di dialogare e dire: ma no, non è possibile che quando tu hai risposto al tuo bisogno per quanto collettivo, quindi c'è bisogno anche di un comune che riscopra il valore di quello che i cittadini possono fare, quindi anche andare in una campagna che significa: tu cittadino non ti posso promettere nulla, anzi ti devo chiedere di darmi una mano per rispondere ai bisogni della città, forse addirittura per manutenzione della Iuole dovremmo organizzare i cittadini, perché non so se ci saranno i soldi per... E quindi un comune che sia capace di riscoprire il capitale, non quello dei soldi che non ci sono più, ma quello delle relazioni, quindi scoprire il capitale enorme di relazioni con il quale un mondo del sociale va avanti già a budget zero da anni, è abituato a vivere in crisi. C'è un mondo che fa delle cose normalmente non toccato da finanziamenti pubblici o da altre logiche che distorcono, e quindi forse l'occasione buona è anche riuscire a mettere in campo le capacità umane che ognuno ha, non distorti da interessi di monetari. Voglio sperare che questa carenza di soldi sia una grossa occasione per andare alla radice delle questioni e non fare solo giochi di spartizione. Grazie Marco. Altri due contributi e poi passiamo di nuovo la parola al relatore. Sì, Maria Cristina, anch'io ringrazio davvero per questi due interventi che hanno rafforzato in tutti i sensi la nostra appartenenza alla lista civica e il nostro impegno quotidiano. Io rappresento il mondo della scuola e come tale mi sento proprio di portare la voce dei giovani, e parlo dei giovanissimi, non tutti i votanti, e comunque una comunità che soffre in questo momento, la scuola pubblica in particolare. Sicuramente il mio impegno parte proprio dalla speranza e dal voler essere vicino ai giovani che sono il futuro. Io ho l'idea che abbiano appunto di nuovo paura, siamo spaventati perché davanti hanno degli adulti che prima erano egoisti, erano estremamente chiusi nel loro benessere, erano alcuni anche indifferenti insomma al futuro. Sicuramente adesso hanno degli adulti che si indignano, che si sono pieni di rabbia, pieni di delusioni, ma non è questo che serve ai giovani. Allora bisogna sicuramente dare a loro una carica che penso parta proprio dalla spontaneità, cioè dal fatto che bisogna dare spazio a quello che è la loro leggerezza anche, e sicuramente la loro, stimolare la loro curiosità. E su questo appunto io insisto molto, ecco, di non fermarci al grido, all'indignazione, ma di andare oltre e di essere concreti, fare delle azioni. Non è importante uscire dall'assemblea degli studenti piuttosto che la nostra, insomma, di docenti, avendo applicato o teorizzato, applicato alla lettera una normativa. Ma non è importante neanche fare l'elenco delle cose che non vanno, limitarsi a fare l'elenco delle cose che non vanno non va bene. Bisogna invece essere piccoli nelle azioni, ma sicuri, ecco, di questo contributo che si può dare. Noi preferiamo, ecco, la caccia al tesoro organizzata spontaneamente dagli alunni piuttosto che una serie di assemblee che sono vuote perché nessuno interviene, oppure si torna in classe più poveri di prima. Questo nella scuola, dove io sono una fanatica dei progetti di cittadinanza, per cui da anni lavoro su questa cittadinanza attiva, e facendo rete tra scuole più che non attraverso un provveditorato e più che non attraverso la collaborazione dell'amministrazione comunale, siamo riusciti ad avere dei riferimenti molto forti, a far incontrare i ragazzi con persone come voi che portano messaggi concreti. E voglio citare appunto per la passata amministrazione la difficoltà che abbiamo avuto, che è finita già sui giornali, a organizzare degli incontri con Gerardo Colombo, che sembrava un pericolo, una minaccia, qualcosa che poteva in qualche modo scardinare qualche sicurezza, e noi fiere siamo andati avanti, insomma, due istituti professionali, un istituto tecnico, niente licei, ma questa è una grande sfida di cui siamo andati fieri per 3-4 anni consecutivi. E in tutti questi incontri, con gioia lo dico, ecco, Gerardo Colombo ha fatto come esempio ai nostri alunni proprio la vicenda, la storia, ecco, di Giorgio Ambrosoli. Quindi sono contentissima di tante cose che si possono ricordare qui stasera insieme, ma che i nostri ragazzi piano piano, pur non avendo letto, pur facendo fatica, possono interiorizzare e poi in un futuro magari anche rendere luce, ecco, luce per il territorio di appartenenza. E ringrazio. Grazie mille. Un ultimo contributo e poi passiamo al relatore. Il mio non è un contributo, è una domanda. L'alterità rappresenta il superamento dell'elemosina come quod super estate pauperibus e dello stessa caritas come virtù teologale. Però l'alterità richiede la libertà, il cosmopolitismo. Come è concepibile senza una società aperta? Ora la mia domanda è questa: di fronte agli ultimi eventi, uno nazionale che si vuole costituire addirittura un partito nazionale, no, che va certamente contro il cosmopolitismo, e la vittoria del fronte nazionale, che rilancia lì, no, una visione nazionalista dei francesi che già nascono nazionalisti, no, non è forse la caduta delle nostre ideologie? Quelle legate alle concezioni socialiste, liberal-democratiche, della società aperta, l'abbandono dell'ideologia, il tentativo di fare dell'utopia o del pragmatismo puro che ci possono creare dei gravi pericoli rispetto a una società veramente libera? Grazie. Ultima questa, sì. Ultimo e brevissimo, volevo solo riprendere l'amico che parlava che di soldi non ce ne sono più, no? No, volevo solo dire, ma simpaticamente, che qui a Como ne abbiamo visti di tutti i colori, ma non di soldi che non ce ne sono più, di soldi ci vola di via. Voglio dire, questo è un altro discorso, per cui voglio dire, non mi metto neanche a fare l'elenco, volevo solo ricordare che l'ultima che abbiamo visto è l'ennesima puzzurrata dei fuochi d'artificio quando è stata aperta la mostra a Villa Olmo. Forse siamo tra gli unici in Italia che fanno questa buzzurrata tutte le volte, perché è veramente una buzzurrata e tra l'altro mi sono anche un po' informato, tutte le volte sono fior di migliaia di euro che vanno via questi cazzo di fuochi d'artificio, scusate. No, no, ma io non è che voglio fare la battuta per dire che secondo me, a proposito di responsabilità, forse responsabilità è anche avere il coraggio di stabilire delle priorità che possono piacere, che possono non piacere, che possono essere trendy, che possono non essere trendy, ma che rispondono a determinati valori. E non è che devi sbandierarli tutte le volte, però insomma, voglio dire, li devi praticare lì, quando stabilisci appunto delle priorità. Ecco. Il che significa tra l'altro che credo che finché il modo di amministrare è tutto scisso, no? Per cui quello che fa un assessore è scisso da quello che fa quell'altro, no? Ognuno che coltiva il proprio orticello, no? Ognuno che coltiva i propri riferimenti, eccetera, eccetera, chiaramente non se ne esce più. Quindi stabilire delle priorità, ma ovviamente anche con un ragionamento che va molto, in orizzontale. Qui finisco con una battuta: siccome ne abbiamo visti di tutti i colori, possiamo solo fare un po' meglio. Grazie mille, passo la parola ora ai relatori per un rapido giro di risposte e riflessioni. Ma io volevo fare due considerazioni. Io non so mica se la politica oggi non può fare grandi promesse perché non ci sono più soldi. Certamente nell'immediato quello che la politica può essere chiamata a offrire sulla base, e mi riferisco in particolar modo in termini, anzi mi riferisco in particolar modo servizi, alla possibilità di garantire servizi. Quello che è chiamato offrire in termini economici non ha la possibilità di farlo con la stessa misura che ha avuto in passato, misura non in senso riduttivo, anzi. Però quello che devo offrire non è semplicemente qualcosa di materiale, né qualche cosa che abbia un riscontro in tempi rapidi. Devo offrire una prospettiva, devo offrire un'idea, devo offrire, se possibile, volendo anche proprio un ideale. Deve, o perlomeno può, offrire il senso della convivenza di tutti noi. Si è osservato che siamo in un momento in cui, per tante ragioni, sembra esserci una rinascita di moti egoistici sotto il cappello del nazionalismo, in un contesto dove certamente il nazionalismo è particolarmente spontaneo. Beh, è indubbio che i risultati elettorali francesi di ieri inducano a questo genere di considerazione. Però non è molto diverso come atteggiamento di chiusura quello del fronte nazionale francese rispetto ad altri che si sono sviluppati nei nostri territori. E non è una novità. Sono 10 anni, 15 anni, 18 anni, 20, che un atteggiamento di grossa chiusura nei confronti dell'altro, o se vogliamo, un atteggiamento di attenzione esclusiva verso se stessi a scapito degli altri, sta crescendo. Non so neanche se proprio dobbiamo parlare di crescita, perlomeno da noi, perché cambia un pochettino la bandiera, cambia un pochettino il colore, però la sostanza sembra un pochettino essere la stessa. Ad esempio, è forse lodevole che il problema che stiamo affrontando in relazione al problema, alla questione delle riflessioni che stiamo muovendo in relazione al fronte nazionale, siano in realtà meno in grado di incidere sulla politica francese una volta che il presidente viene eletto di quanto in altri paesi dei moti così estremi. Io sto pensando all'ala più estrema del Partito Repubblicano Americano, siano in grado di fare all'interno del Parlamento americano. Da sempre, nel momento in cui le tensioni economiche e sociali sono particolarmente forti, gli estremi guadagnano spazio, perché si è più sensibili al proprio interesse. Poi è la risposta alla coltivazione del proprio interesse o all'attenzione del proprio interesse può avere migliaia di colorazioni o caratterizzazioni diverse. Ora, in un momento in cui questo scenario riusciamo a immaginarcelo anche con le sue derive per il futuro, il ruolo della politica deve proprio fare qualcosa di diverso dal concentrarsi sul rispondere all'esigenza di oggi, ma deve proprio con più forza ancora guardare al di là dell'immediato, cercare di non soddisfare quel moto egoistico che per definizione è concentrato sull'immediato. Io, ora, subito. E saper regalare un sogno che non può concentrarsi sull'affermazione del presente. Grazie a Umberto Ambrosoli. Passo la parola ora a Don Virginio Colmenia. Sì. Ma alcune cose sono già state, anche perché credo che la bellezza anche di un incontro come stasera è quello di dare il senso che dire politica, cioè costruzione di polis, di cittadinanza consapevole, di cittadinanza responsabile, non è semplicemente un'opzione, ma è un'esigenza forte che sta dentro anche, partendo anche dal territorio, cioè, dobbiamo dircelo, cioè, partire dal territorio è certamente uno degli elementi importanti per ricostruire le ragioni della politica in un periodo di crisi così forte. Non si tratta quindi di fare solo un'esperienza territoriale localistica, si tratta evidentemente sul territorio, nelle relazioni concrete, nel guardare in faccia le persone, nel ricostruire polis, cioè benessere tra le persone, partendo anche dalle sfide che nascono dalle fragilità, dalle differenze. Quindi il fatto che ci si impegna su un territorio e si vuole voltare pagina di fronte ad alcune esperienze, credo che sia un'esperienza forte che va richiamata nella responsabilità. Io l'ho vista questa, e io lo cito anche nel libro, ma che per me è stata paradigmatica quando, visto che c'era il primo sgombero, un po' di tende sono andate ad opera alla periferia di Milano. Io lì ho vissuto, evidentemente le hanno bruciate, hanno fatto, c'era della gente che faceva politica fuori, tra virgolette, con la P minuscola, facevano le salamelle tutte le sere, mangiavano, non volevano quelle persone che stessero nelle tende, e quando si passava c'era la dose di insulti che si prendeva, si entrava dentro in quel linguaggio rancoroso di egoismi corporativi. Lì quelli avevano una solidarietà che era la solidarietà del contro, la solidarietà del guardare i propri interessi sostanzialmente. È una piccola solidarietà. Oh, Areso, quello che ha organizzato l'incendio è diventato sindaco di Opera, quindi anche quindi voglio dire, ha fatto una propaganda politica immensa. Aveva diffuso quest'idea della città assediata sostanzialmente, che quindi va difesa dai barbari che arrivano, qualsiasi siano. E bisognava avere il capro espiatorio, bisognava avere chi a cui scaricare le proprie responsabilità per tagliarsi fuori continuamente da una responsabilità. È chiaro che lì c'è stato un percorso, che però non viene stato. Tutte quelle persone lì che erano nelle tende, paradossalmente adesso abitano nelle case, ma non lo dice nessuno, cioè, è stato un lungo percorso di ricostruzione che ha reso possibile che anche persone che venivano da esperienze difficili, che creavano paure, invece sono stati le persone con il loro soggetto. Cioè, io cito sempre la battuta che cito, che una di queste è venuta a dirmi finalmente, dopo aver lavorato tanto, aver conquistato la casa, abita la casa, e dice: Don Virginio, sa cosa è successo? La vicina di casa è venuta a dirmi: meno male che ci siete voi, vi do le chiavi, curatemi i fiori, io vado in vacanza tranquilla, state attenti che ci sono in giro gli zingari. Ecco, perché di fatto sostanzialmente la prevenzione è entrata dentro nella costruzione del clima. Cioè, quello che stiamo cambiando adesso è il clima, dobbiamo cambiarlo, il clima. E il clima, quello delle relazioni, dell'aggressività, del bisogno del nemico per ricostruire la propria identità. Dobbiamo proprio smontare pazientemente, ma per la ragione del vedere che prima che il nemico c'è una persona, che magari è un avversario, va ricostruite le ragioni della conquista, del consenso degli altri, ma va portata questa idea, perché se dovesse passare l'idea che la politica è quella sostanzialmente del costruire una città conflittuale per definizione, dove si è corporativi in difesa, dove tutto quello che arriva è semplicemente l'assemblea di condominio con la nevrosi di condominio, dove uno litiga con l'altro, c'è una mancanza, si vive a gogo di ansiolitici in questo tipo di modo, perché la paura poi viene chimicizzata. Se la paura diventa sostanzialmente il soggetto dal quale si deve scatenare la ragione della politica, si pesca male. Un sacco di gente ha pescato consenso e ha gestito la paura della gente. Ecco, è una dimensione quotata in borsa. Anzi, io dicevo spesso, e lo vedevo, che quando c'è qualche disastro, invece di stare attenti, di soffrire interiormente per quelli, dico, meno male che c'è, non ci interessano più le vittime, le dobbiamo utilizzare subito per dire: avete visto che. Dove quello che conta sostanzialmente è la riduzione, il riduzionismo, che drammaticamente ha dentro lo snaturamento della dimensione della solidarietà, che è una solidarietà aperta, una solidarietà inclusiva, una solidarietà che rischia in prima persona, che rimette in gioco un bene comune che è un bene plurale, che porta dentro con sé una categoria della politica che è quella anche del limite. Non è un esercizio di onnipotenza, è un esercizio che porta, noi abbiamo avuto in questo periodo una serie di persone che pensavano di essere onnipotenti, ma di fatto poi il limite arriva, cioè il limite è che bisogna fare i conti con la gradualità, col limite, con la capacità anche di intravedere che non tutto è possibile, dalla gestione di una città si avverte questo, non è con la bacchetta magica che si risolvono tutti i problemi. C'è la dimensione della gradualità, della capacità, della costanza dello stare in mezzo, dell'avvertire qualche volta che la solidarietà implica anche una pazienza che non è assenza di, è costruzione continua delle possibilità e delle opportunità. Ecco, attorno a questo tipo di ragionamento si cambia il modo di far politica, dove c'è una politica che è sostanzialmente la politica clientelare e lobbistica, dove ci serve sostanzialmente andare a contrattare per i propri interessi. La categoria della politica segnata dalla gratuità, e gratuità mi capite subito che sto continuamente dicendo non un valore di carattere economico semplicemente anche, ma un valore di concezione del bene comune e della responsabilità, per cui mi avventuro in una responsabilità anche se questo porta dentro una riduzione della mia potenzialità o una gradualità, trasferisco anche le possibilità che ho rispetto ad altri. Questo tra l'altro è un elemento che in periodo di crisi come questa, di risorse, deve diventare importante, perché c'è la scelta delle priorità, c'è la scelta del dove intervenire, c'è la scelta di un paese dove la stragrande maggioranza, il divario tra ricchi e poveri è aumentato totalmente, dove c'è certamente una concezione della separazione. Noi dobbiamo andare a rivedere le disuguaglianze, a rimettere dentro questi tipi di elementi. E qui c'è tutto il valore anche della responsabilità, dell'etica personale, delle tasse che al di là del patto soltanto tanto va pagata, dell'evasione fiscale, dell'attacco delle disuguaglianze, che sono tutti problemi che ritorneranno sul territorio. Pensate al tema che arriverà, perché una politica nazionale che scarica sul territorio le contraddizioni, il comune dovrà discutere dell'IMU, se è fatta tratti, fatta come, a che livelli e come. Questo ha bisogno di categorie culturali nostre, forti, capaci di essere entusiaste e di recuperare anche la categoria del benessere, della felicità come una categoria importante. Io lo dico a quelli che fanno volontariato anche con me, quando vedevo alcuni che mettono il volontariato, volontariati, non volontariato, quasi che fosse una categoria generica dove ci sta dentro tutto, perché ci sono anche tanti modi, lo mettono nella categoria del sacrificio, prima ancora che si dice la messa categoria del piacere. È recuperare il senso dell'esistere, delle relazioni con gli altri, delle relazioni anche professionali, delle relazioni di competenza. Questi bisogna metterle dentro con un'energia nuova e va riscoperta, perché mai come in questo periodo si ha bisogno delle stagioni dell'individualismo esasperato, della concorrenzialità esasperata, ha portato dentro una concezione dell'individuo chiuso in se stesso, cupo. Del resto la crisi che abbiamo, che vediamo tutti i giorni, non è più del volto della povertà estrema, è la gente normale che è lì, che non ce la fa, è gente che ha portato dentro, penso ad alcune dipendenze, io penso per esempio alle dipendenze da gioco che arrivano continuamente, questa felicità quantitativa che poi ha svuotato continuamente l'esistere. Penso, lo dicevo per battuta ma è reale, su 100 persone da noi accolte 40 sono passate ai servizi psichiatrici e di più, hanno un disagio, i minori che arrivano, c'è dentro questa sofferenza che la prendiamo, ha bisogno di essere capovolta questa storia, certo con categorie etiche di impegno, di responsabilità che poi si traducono però in una capacità strutturale, in un volto nuovo da dare anche alla politica, che per me è capacità di impegno verso gli altri, non dimenticando anche la propria esistenza. È chiaro che questo chiede di essere poi agganciato profondamente anche in culture e in tradizioni diverse. Si citava la Costituzione, questo credo che sia importante, questa stagione costituente che tra l'altro va riletta. L'amico Gherardo Colombo, quando viene sostanzialmente dice sempre questo, fa le domande, dice ma l'avete letta, che tutti parlano della Costituzione, ma l'avete letta la Costituzione, mette tutti in crisi, perché tutti la citano sempre, dopodiché digli gli articoli e altro, lui giustamente richiama tutti gli articoli e tira fuori che da lì ci sono alcuni beni fondamentali, frutti di confronti, di passioni, di diversità, e qui non si mette mano tranquillamente alla Costituzione, è un patrimonio di democrazia, qui stiamo parlando della democrazia, e la democrazia cresce se aumenta il livello di partecipazione, ma se la partecipazione poi produce un tessuto democratico di regole sociali sulle quali ci si deve misurare, che sono evidentemente forti e capaci di, quindi i principi della Costituzione sono forti. Quando si richiama la partecipazione, lo dico anche a Milano dove si discute adesso dopo aver fatto l'invasione bella della partecipazione, la partecipazione poi costruisce regole, non è semplicemente una rivendicazione del se stesso, dei tanti comitatini che uno viene fuori a tutti i livelli e reclama per sé indipendentemente dall'altro, è la costruzione delle regole sociali dove sta dentro in questo movimento partecipativo che è più importante, la grande difficoltà che si avrà come auguro se vince, se si volta pagina a certa parte. Poi bisogna essere lì a misurarsi col tema di una partecipazione che si costruisce nelle regole, definisce le priorità, rimette in gioco continuamente questo stile, quindi ha bisogno di essere convocato continuamente in questa connessione profonda. E credo che non sia una cosa da poco, citava la Costituzione, ma veniva fuori un altro elemento che mi interessava abbastanza, quello degli stili di vita. Io qui ci insisto su questo concetto, lungi da me essere così tanto moralista e così tanto pauperista, perché poi le altre accuse sono moralista o pauperista e quindi siamo a posto, ci mettono via rispetto a quello. Non è questo il nodo. Tra l'altro il tema della ricchezza quantitativa smodata e così via ha prodotto delle distorsioni drammatiche in termini di vita. Qui rischiavamo di avere un presidente francese che era quello che aveva altre storie invece rispetto a questo. La concezione della vita personale che ha la sua autonomia, la sua privacy fondamentale, però gli stili di vita, certamente nella pluralità, nelle diversità e nelle opzioni senza censure, incidono, conta la soggettività. Deve essere ritornata come coerenza, come stile di partecipazione. Tutti gli esempi che citava prima anche sono nati anche da persone che hanno preso la responsabilità, ma poi l'hanno portata dentro anche come orgoglio personale, come coerenza personale. E la coerenza personale si alimenta dentro di noi se c'è uno spazio nella soggettività dove ci si rende conto che quello conta. Non si può predicare, annunciare pubblicamente qualcosa e poi c'è la dissociazione nella tua vita privata, ti alimenti continuamente a livello. Questo crea evidentemente una frattura che viene giocata negli elementi di corruttela delle relazioni. Allora, gli stili di vita sono in grado evidentemente di orientare benessere e felicità, però per far questo dobbiamo recuperare anche questo, che sta dentro anche nelle categorie politiche complessive. È chiaro che attaccare la casta senza urlare altro, ma è chiaro che c'è qualche problema grosso di come la quantità di denaro entra dentro, di come si utilizza, di come si vive, queste scelte che hanno certamente un significato anche simbolico. Io uso spesso la parola liturgico, guardate, però bisogna farlo in questo momento perché la pressione è evidentemente molto forte sul modo col quale le notizie arrivano e si devasta, per dare credibilità all'impegno anche politico di figure che devono diventare classi dirigenti. Io continuo a dire che la società civile deve evidentemente non essere solo una società che testimonia e poi lascia alle istituzioni di lavorare, è una società civile che appunto perché assume la responsabilità deve produrre istituzioni e come tale deve assumerla questo tipo di responsabilità con tutti i rischi che questo consegue. Però lo stile di vita, gli stili di vita che entrano dentro nel consumo, nei beni relazionali, nella difesa dell'acqua come bene pubblico, abbiamo fatto dei referendum anche su questo, abbiamo visto che ci si muove, non sto parlando di stili di vita in termini soggettivi, sto parlando di questi valori, entrano dentro anche nella costruzione del territorio, nella costruzione della casa, nella costruzione dell'abitare. E allora è chiaro che se uno ha uno stile di vita che è segnato da questo, in termini di comunicazione, di passione, ma anche di coerenza personale o di assunzione del proprio limite, quindi del bisogno degli altri per ricostruire una soggettività coerente, richiamandosi nell'autocritica. La partecipazione è fatta non di difesa ideologica, ma di autocritica anche forte, e questo è uno degli elementi importanti. Io credo che il fatto del fiorire delle liste civiche anche sul territorio, poi quelle sul nazionale bisognerebbe ragionare, hanno un valore perché entrano dentro in questa mediazione che altrimenti diventa l'antipolitica. Noi dobbiamo star dentro per ricostruire un modo di partecipare anche forte, per riconnettere la fiducia dei cittadini dentro la costruzione. Allora lista civica vuol dire la civis, stare nella città, là dove si vive, dare il nome e nome concreto ai problemi, e questo credo che sia estremamente importante. Si citava la scuola, qui c'è il grande tema dei giovani, che va rilanciato, perché vedete, Milano si fa un gran parlare, ma Milano ha 400.000 anziani superiori ai 65 anni, 220.000 stranieri, e tra i minori la stragrande maggioranza ormai comincia ad essere tra i minori piccoli. In Crescenzago, dove ci sono le scuole, c'è il 70% di bimbi da 0 a 6 anni che hanno genitori stranieri. Questo è il dato di una città, che è una città plurale, che ha dentro evidentemente... Allora, le culture che ci sono hanno bisogno evidentemente di una capacità di dialogo che confronta le proprie identità, che scava dentro, quindi la dimensione culturale diventa fondamentale, la politica dell'impegno è una politica che chiede cultura. Allora i giovani che stanno studiando, che sono dentro degli impegni, che si alfabetizzano, che studiano all'università, dobbiamo sognare che vadano solo all'estero a studiare, o dobbiamo riportarli anche dentro qui, in questo tipo di grande capacità di fiducia, in una situazione dove è cambiato il tema, dove c'è una precarietà diffusa? Però bisogna far sì che questa dimensione culturale entri dentro nel tessuto, non ci siano delle scorciatoie. Si può lavorare con internet, si può comunicare, si può, io dico sempre i miei, si può tirare giù da internet, però bisogna leggere anche i documenti che si tirano giù da internet, bisogna cominciare a studiare. Lo dico perché l'esperienza che noi abbiamo in Casa Carità, quando Gaglia Martini vuole, abbiamo messo lì la biblioteca di confine, che vuol dire libri, vuol dire fatica, vuol dire 300 riviste, vuol dire rapporti con l'università, e sono in un luogo dove ci sono lì quello che qualcuno chiama dormitorio. E abbiamo quasi 2.000 iscritti alla biblioteca del quartiere che vengono, anche dei bimbi che vengono. Oggi è la giornata del libro, no? E allora su questo bisogna riprendere, cioè i politicanti sono gente che studia e approfondisce i problemi, che prima di fa laboratori di studio sui problemi, la professionalità la mette dentro, perché è un periodo straordinario di innovazione dove le formule tradizionali di risposta non bastano più o sono inadeguate. Questo vale per tutti i settori, dall'economia alla finanza, alla capacità di inventare dentro, del ristudiare questa dimensione di ricerca. E anche la lettura della crisi, per certi versi drammatica, che la vediamo sempre, deve riaprire delle formule, deve riaprire dei laboratori anche virtuali di comunicazione. E credo che questo sia un elemento importante che sta dentro anche nella città. Io sogno evidentemente che si riesca a riscoprire la voglia di riprendere anche categorie di formazione. La formazione come capacità anche formativa di riprendere, perché tutte le nostre schemi possono anche saltare, per non essere scorciatoio improvvisato nel dibattito dei talk show dove la gente dice... Ho visto che hanno litigato tanto, è stata bella, perché cosa hanno detto? Non lo so, so che hanno litigato molto, perché il tasso è la qualità di litigio e di contrapposizione, senza aver bisogno di documentare le cose che si fanno, per cui uno ragiona non tanto sui contenuti che dice, ma come fare a convincere l'altro in termini di dibattiti a questo livello. Abbiamo bisogno di categorie che apparentemente non conquistano. L'ultimo dato però, c'è un po' di fantasia, un po' di capacità di comunicazione, dobbiamo dire belli ma pochi, la politica è fatta anche di costruire il consenso, e quindi il consenso che non è quello del fare il sondaggio d'opinione e poi da lì misurare le proprie scelte, che qualche volta invece ci vuole il coraggio del cambiamento. Però detto questo, il consenso, abbiamo bisogno anche di strumenti che arrivino o di storie raccontate o di capacità, quindi il tema della comunicazione è un tema evidentemente importante in questa categoria. Vedete, da noi arrivano le persone, so che qualcuno le giudica anche negativi, che hanno bisogno, altri giovani, ma tutti ormai hanno in mano il cellulare. Quindi dobbiamo renderci conto che ci sarà una generazione che si chiamano i nativi digitali sostanzialmente. Nascono anche con altre categorie di comunicazione a questo livello. Noi dobbiamo anche pensare che dobbiamo entrare in questa dinamica, e questa permette però dei collegamenti. Quando io vedo nella mia biblioteca che i miei minori egiziani sono arrivati tutti da Lampedusa raccontando le loro storie drammatiche, però stanno al computer, parlano col loro territorio, si mettono in moto, ci sono dentro delle comprensioni ormai che rimettono in moto un linguaggio anche di comunicazione, anche virtuale, che ci fa dire che comunque nella difficoltà in cui siamo vale la pena di vivere anche in questo periodo. Grazie mille Don Virgilio Colmenia, si è fatta una certa ora, io molto brevemente, visto che Don Virgilio ha parlato di un periodo di grande cambiamento nel quale abbiamo la fortuna di vivere e nel quale le risposte che abbiamo dato finora non bastano più. Con questa premessa io chiederei molto velocemente a Umberto Ambrosoli, a Don Virgilio Colmenia, di esprimere un loro augurio personale ai cittadini e alla città di Como. Come sempre in fase di elezioni, in particolar modo in questo periodo storico, che le elezioni non finiscano con la tornata elettorale, cioè che la partecipazione che si dimostra nella fase precedente al voto accompagni la cittadinanza per tutto il mandato della nuova amministrazione, quale che essa sia. L'accompagni nel senso di tenere a memoria le promesse che sono state fatte, gli impegni che sono stati assunti, e verificare qual è la capacità di chi si è affermato vincendo o di chi invece è stato destinato all'opposizione di dare seguito a ciò che con quelle promesse ha voluto concretizzare come risposta alle esigenze della città, o perlomeno ha voluto rappresentare come risposta alle esigenze della città. L'elezione è uno dei momenti del patto della cittadinanza. È una delle occasioni attraverso le quali la cittadinanza partecipa alla propria evoluzione, ma è solamente uno dei momenti, il punto di partenza, se vogliamo, di una nuova fase. Ma è una fase dove la partecipazione di ciascuno di noi non può considerarsi limitata al momento di inizio o al momento propedeutico a quell'inizio. Grazie, molto auguri. Io dico solo auguri, è il momento di andare avanti, quindi che si continui, nel senso che aveva detto anche lui, nella partecipazione. Mi lasciate dire l'esperienza di Milano, lo dico perché potrebbe portare buono. No, nel senso di rendersi conto che una scelta che ha fatto Giuliano poi quando ha vinto è quello di far sì che la giunta sia rappresentanza di una voglia di costruire la città continuamente, quindi non essere dentro negli schemi di correnti, altro e così via. Ci si immerge poi in un periodo di gestione che deve dare il senso della complessità della gestione unitaria. Con una battuta, perché come dicevo prima, sono molto contenta di queste testimonianze di questa sera, che mi sembra abbiano in modo particolare rafforzato la convinzione e la volontà di questo gruppo di persone che si è messo in ballo, che quindi il nostro percorso ha senso e ha delle caratteristiche di novità. Però volevo agganciarmi anche alle ultime battute prima di Don Colmenia, però l'attenzione poi anche a darsi degli strumenti per creare consenso, perché la bellezza della nostra testimonianza sarebbe poca cosa, e quindi in questo caso appello a tutti voi ad aiutarci ad estendere il più possibile la nostra volontà di contribuire ad una politica diversa della nostra città, da controllare costantemente. Volentieri ci sottoporremo a questo test di verifica giorno per giorno. Grazie. Grazie a tutti voi e buona serata.